punto di Stefano Folli. Accade qualcosa di bizzarro intorno alle province. Ricordate la loro abolizione, giustamente enfatizzata dal governo come una delle prime grandi riforme realizzate? Beh, fra pochi giorni verranno eletti i nuovi consigli provinciali. I partiti sono tutti in pista, solo che hanno preparato delle liste civiche in cui le vecchie sigle scompaiono e si creano invece delle alleanze imprevedibili, perfino in qualche caso fra esponenti dei 5 Stelle, del PD e addirittura di Forza Italia, tutti insieme appassionatamente. Si dirà, come mai nessuno sa di queste elezioni? Per la ragione che non saranno gli italiani a recarsi alle urne, saranno elezioni cosiddette di secondo livello, ossia gli elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali in carica, i quali eleggeranno i loro colleghi dentro liste preparate dai partiti. Si tratta di un periodo transitorio in attesa della riforma costituzionale che dovrà, non si sa quando, cancellare l'istituto. Intanto però la riforma non è stata fatta e anzi il quadro è diventato molto più opaco. Proprio quello che accadrà più in grande con il nuovo Senato. Siamo sicuri che sia un progresso?